e Colaninno, noi facciamo quello che dice l'antitrust. E ancora i conti, Sabelli, nel primo trimestre abbiamo perso 210 milioni, ma nel terzo ci aspettiamo un pareggio a livello operativo. E ancora Colaninno dice, stiamo dimostrando che è stato giusto non vendere ai francesi. Infine su Malpensa, leggo, ma sono due pagine molto intense e fitte, non stiamo voltando le spalle a Malpensa, anzi inaugureremo presto un'altra rotta intercontinentale verso Miami e poi lanceremo nuovi voli a prezzo contenuto col marchio Air One per far concorrenza a EasyJet e Lufthansa. Non vuol dire che diventeremo una low cost, non ne abbiamo la mentalità e non ne abbiamo la struttura. Questo è l'incontro con Rocco Sabelli, amministratore delegato, e Colaninno, presidente della Nuova Alitalia. Sono le 8:18 minuti in questo istante, eccoci qua con 24 Mattino, eccoci qua con l'economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci con Deborah Rosciani. Cosa vuoi fare? La mattina parte così, sempre così. Un po' in salita per te. Perché? Perché? Niente, perché mi ritrovi da quest'altra parte da quest'altra parte del tavolo. Ah, avevi freddo stamattina in motorino? Hai sentito che gelo che è calato su è di vero, noi? È vero. Però così ti conservi per l'eternità, pensa che bellezza. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo a parlare di rapporti con il nostro operatore delle telecomunicazioni. Mm-hmm. Hai qualche conflitto in corso, Alessandro? Ma no. Ti ritrovi spesso a litigare con il tuo operatore? No. Devo dire di no. Bravo. Uso poco il telefono. O non guardi le bollette, non perché parlo sei con me. Solo con me, da questa parte. Allora, perché ne parliamo questa mattina? Parliamo di operatori telefonici. Ne leggiamo spessissimo sui giornali. Continuano ad essere sanzionati per le motivazioni più diffuse. La più frequente è la pratica commerciale scorretta. Però l'operatore telefonico è un po' come la banca, un po' come tanti altri servizi, ormai non ne possiamo fare più a meno, e alla luce di questo, forse proprio alla luce di questo, nonostante l'enorme concorrenza fra operatori che si è creata negli ultimi anni in questo mercato, abbiamo sempre l'impressione di avere a che fare con una giungla di offerte pronte ad assalirci, ma sempre poco trasparenti. Ci sono delle novità, stamattina ce le spiega il dottor Enrico Maria Cotugno, membro della Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Dottor Cotugno, buongiorno. Buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori. Allora, sono novità che attengono alla conciliazione. Perché? Perché quando ci troviamo in conflitto, quando ci troviamo a dover aprire, per le ragioni più disparate, poi ne parleremo, un contenzioso con il nostro fornitore di appunto servizi telefonici, per le telecomunicazioni non è possibile imboccare subito la via giudiziaria. Il cliente deve avviare prima un tentativo di conciliazione presso un organismo extragiudiziale. Allora, questi organismi di conciliazione sono istituiti presso sedi diverse, noi conosciamo, ne abbiamo parlato tante volte anche da questi microfoni, la conciliazione che è possibile attivare presso le camere di commercio, ma per le telecomunicazioni c'è un organo istituzionale che è il Corecom. Allora, dottor Cotugno, da che cosa partiamo? Dalle novità che riguardano le camere di commercio o dalle novità che riguardano il Corecom, i Corecom regionali? Beh, io partirei dai Corecom, o meglio, partirei da un quadro generale. Lei ha correttamente ricordato le camere di commercio, ma diciamo che la nostra procedura prevede, come prima possibilità, quella dei comitati regionali. Quindi in quasi tutte le regioni, ne mancano solo 4, i comitati regionali svolgono questa funzione conciliativa in maniera egregia. Poi se abbiamo tempo ricordiamo qualche dato. Certo. In alternativa ai Corecom, gli utenti hanno la possibilità di scegliere se rivolgersi alle camere di commercio oppure agli altri organismi che svolgono attività conciliativa in via privata. E infine hanno anche la possibilità di scegliere la via della conciliazione cosiddetta paritetica, cioè quella fatta in accordo tra le associazioni di consumatori e gli operatori di telefonia. Allora, i Core, come dicevamo, adesso andremo appunto alle novità che riguardano i comitati regionali delle comunicazioni, però le chiedo anche un quadro generale, dottor Cotugno, in un altro senso. Quante contestazioni continuano ad esserci verso i gestori telefonici, soprattutto le polemiche più importanti tra un utente e la propria compagnia riguardano appunto che ambito? Perché leggo per esempio che la cosa che fa arrabbiare di più l'utente del servizio di telecomunicazioni è generalmente la modifica unilaterale dei contratti. Rimane ancora questa la situazione o avete, come dire, esplorato anche altri terreni di conflitto? Allora, andiamo per ordine. I numeri sono l'anno scorso, nel 2008, tra le tre varie specie di conciliazione possiamo contare circa 60.000 controversie avviate, quindi sono numeri importanti che dimostrano non solo la conflittualità della materia, ma anche la bontà del sistema. Io sono convinto che se non ci fosse un sistema così facilmente accessibile, quelle 60.000 controversie non sarebbero mai andate di fronte a un giudice. Quindi questi numeri dimostrano, sono anche un dato positivo, diciamo, da questo punto di vista. Sì, che paradossalmente testimoniano l'enorme concorrenza che gli operatori tentano di farsi tra di loro. Insomma, tutti i modi possibili per strapparsi clientela li cercano, in sostanza. Certo, anche quello. Sicuramente una delle le modifiche contrattuali è una di quelle cose che fa tanto arrabbiare gli utenti, però è anche vero che modificare il contratto è in alcuni casi possibile per l'operatore. L'importante è che poi lo avvisi, cioè che questa modifica sia trasparente e quindi il cliente abbia la possibilità, se ritiene, di recedere dal contratto. Altre fattispecie comuni che riscontriamo purtroppo ancora con numeri elevati è l'attivazione di servizi non richiesti. Anche questa manifesta l'aggressività degli operatori e testimonia quindi la liberalizzazione del mercato. E ancora la sospensione della linea, quella sicuramente è un altro argomento molto scottante, perché nessuno ha piacere a trovarsi un giorno senza il servizio telefonico. Certo. E su questa forse potremmo dare qualche consiglio in più ai nostri ascoltatori. Allora, magari diamoli subito questi consigli, dottor Cotugno, perché molto spesso ci si può ritrovare la linea telefonica disattivata banalmente non perché non abbiamo pagato la bolletta. Allora le chiedo magari quando tutti questi conflitti di cui stiamo parlando questa mattina sono causati un po' anche dalla disattenzione del cliente, perché ci piace molto sparare addosso alle compagnie, ma non sempre è proprio giusto anche agire in questo modo. Beh, per esempio, ecco, un consiglio da dare subito a tutti gli ascoltatori è: quando c'è un problema, non pagare la fattura telefonica non è il sistema giusto per contrapporsi all'operatore, proprio perché non pagare tout court la fattura dà la possibilità all'operatore di legittimamente sospendere il servizio. Quindi se c'è un problema, per esempio c'è stato il fenomeno del traffico non riconosciuto verso numerazioni a valore aggiunto, quelle lì dei maghi, la cartomanzia, eccetera, eccetera. Allora, in questi casi il consiglio è non pagare solo la parte di traffico che si contesta, perché se si paga parzialmente la fattura, l'operatore non potrà sospendere il servizio. Ma è così facile separare in due la bolletta, dottor Cotugno? Attualmente sì, grazie alle norme dell'autorità, adesso la bolletta è trasparente e gli addebiti sono separati, quindi è facilmente individuabile quali voci attengono a traffico verso numerazioni speciali e quali invece attengono, ad esempio, al canone o al traffico normale, diciamo, al traffico verso numerazioni geografiche. Benissimo. Allora, adesso se avremo tempo andremo anche ad altri suggerimenti per gli utenti delle telecomunicazioni, praticamente noi tutti, però avevamo promesso anche di spiegare quali sono le novità che riguardano i Corecom regionali. Dal 1 ottobre che cosa è successo, se ci riusciamo in pochi secondi, dottor Cotugno? Pochissimi secondi. Sono stati talmente bravi i Corecom che dal 1 ottobre 3 Corecom, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia, hanno assunto su di loro anche il compito di svolgere la fase definitoria, che vuol dire che una volta fatta la conciliazione, se la conciliazione va male, l'utente può andare dal giudice, ovviamente, ma può anche scegliere la via amministrativa. Fino al 1 ottobre questa via amministrativa, cioè la decisione della controversia, la prendeva l'autorità in sede accentrata a Napoli. Dal 1 ottobre sono partiti questi primi 3 Corecom. Ho ricordato il Corecom Puglia, mi piace ricordare che questo Corecom ha ottenuto un premio importantissimo europeo proprio per la gestione informatizzata delle controversie, quindi un'eccellenza che insomma ci rende pieni di orgoglio e dimostra come questo lavoro che stiamo facendo insieme ai Corecom è un lavoro molto importante per i cittadini. Sono presenti capillarmente sul territorio, ne parlavamo prima, uno dei limiti di questi organismi è che sono presenti per lo più nei capoluoghi di regione, quindi abbiamo un po' di difficoltà ad accedervi, dottor Cotugno, o no? Sì, in parte è vero, però è vero anche che quelli più attrezzati stanno avviando la conciliazione online, quella in via telematica o anche quella in audioconferenza, quindi via telefonica, e alcuni, quelli più grandi, addirittura si stanno dotando di sedi periferiche. Benissimo. Quindi anche da questo punto di vista i Coricom si stanno muovendo in ottica di tutela degli utenti. Allora, una volta che ci troviamo insomma di fronte a una bolletta che non ci piace, un servizio attivato senza che ne eravamo a conoscenza da parte della nostra compagnia, dottor Cotugno, ultima indicazione prima di salutarci, dopo aver, come dire, litigato con l'operatore del call center della nostra compagnia, andiamo subito al Coricom? A protestare. Se il reclamo non ha sortito effetto o non otteniamo una risposta entro 45 giorni, allora si può avviare una conciliazione. Certo, dinanzi al Coricom è assolutamente gratuita, le altre strade comportano qualche costo, qualche anche se costo. Lieve. Anche se in genere, come dire, il costo più importante è quello della perdita di tempo, certo, siamo costretti. La ringrazio, torneremo sicuramente a sentirla presto, magari a Salvadanaio, per spiegare in maniera anche più ampia in che cosa consiste l'attività dei Coricom e soprattutto anche dell'Agicom. Grazie dottor Cotugno, a presto. Grazie a voi, a presto. Alessandro, oggi a Salvadanaio parlo di mutui, di questa direttiva europea del 40% di cui hai parlato ieri anche in rassegna stampa. Ah certo, ne scriveva al Sole. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Il presidente di Confindustria Marcegaglia chiede rispetto per il presidente della Repubblica Napolitano. Non attacchiamo le istituzioni, ha detto ieri, e rivolgendosi al premier Berlusconi ha detto vada avanti con le riforme. Da parte sua Berlusconi ha assicurato governeremo fino alla fine della legislatura. Ieri intanto il capo dello Stato, di fronte all'accusa di avere violato patti per far superare a Lodal Fano lo scoglio della Corte Costituzionale, ha reagito con una nota definendo la ricostruzione del tutto falsa. Il gesto isolato di un fanatico, è questa l'ipotesi degli inquirenti sull'attentato di ieri alla caserma Santa Barbara di Milano, dove un libico di 35 anni ha fatto esplodere un ordigno. Il ministro dell'Interno Maroni ha convocato per oggi il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, possibile un'intensificazione dei controlli sulle moschee. Infine, il commissario tecnico della Nazionale di nuoto, Alberto Castagnetti, è morto ieri sera. 66 anni, da qualche giorno era stato sottoposto a un intervento al cuore. Scioccata e sconvolta dalla notizia, si è detta Federica Pellegrini. E dunque alle 8.35 minuti siamo pronti per il sondaggio di oggi. Ricordo 800 24 00 24, se volete intervenire. Invece dovete votare sul sito radio24.it. Parliamo di immunità parlamentare. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Già, la domanda è molto semplice. L'immunità parlamentare la reintrodurreste? Era il 28 ottobre 93 quando fu abolita definitivamente quella modifica dell'articolo 68 della Costituzione, secondo la quale tutti i parlamentari non potevano essere sottoposti anche a procedimento giudiziario senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, quindi anche una sola indagine fu tolta sull'onda di Tangentopoli, si è comunque riaffacciata nel panorama politico. Per esempio, io voglio salutare il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha già detto varie volte, insomma, che la sua è un'iniziativa personale, ma insomma lei ha fatto una proposta di legge per tornare, possiamo dire così, al pre-93, al pre-28 ottobre 93? Sì, io credo che furono molto migliori le motivazioni che spinsero i padri costituenti nel 1947 a introdurre la immunità parlamentare. Lo fecero in tutta serenità, lo fecero non spinti da alcuna necessità momentanea. Ci sono in quella Assemblea Costituente tutti i padri della Repubblica, e mentre invece trovo assai affrettata, è notorio che fu affrettata, fatta sull'onda della piazza con la gente che rumoreggiava veramente, letteralmente sulla piazza contro i parlamentari, la decisione presa nel 93. E poi basta vedere i risultati. Dal 93 ad oggi c'è uno stato di scontro continuo, quantomeno frequente, fra la politica e la magistratura. Io credo che ciascuno di questi due ambiti deve essere indipendente, ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. L'indipendenza della magistratura è un patrimonio per il paese, ma anche l'indipendenza della politica. Sì, poi la politica si assume le proprie responsabilità davanti agli elettori. Era il periodo, senatore, anche dei cappi in Parlamento, si ricorda quel cappio. Però le chiedo, vagamente impopolare, insomma, la sua proposta, no? Glielo dico così, non so, la gente cosa associa? Ah, l'immunità, vogliono tornare all'intoccabilità della casta da parte dei giudici. Ma è chiaro che se ci si mette su questo piano della casta, dei politici tutti delinquenti e così via, è ovvio che se i politici sono tutti delinquenti sarebbe meglio metterli in galera subito e non facciamogli neanche il processo. Siccome però le motivazioni alla base della immunità parlamentare sono un po', vanno un po' al di là di questo, tant'è vero che nell'assemblea costituente, appunto, dove non è che ci fosse una banda di malfattori, almeno non mi risulta, ma c'erano, appunto, per fare dei nomi, De Gasperi, Togliatti, Nenni, Pertini, tutti i presidenti, quasi tutti, perché poi gli ultimi sono ovviamente troppo giovani per essere stati nella costituente, ma quasi tutti i presidenti della Repubblica, pensatori, persone che poi hanno intrapreso altri campi, grandi costituzionalisti. Ebbene, il punto è, si tratta di mantenere la separatezza e la indipendenza della politica. Poi un Parlamento che abusi di questo istituto deve rendere conto, i partiti che abusano di questo istituto, che abusassero di questo istituto, devono rendere conto agli elettori. È quello che successe nel 93, insomma, in quegli anni in cui davvero... Insomma, lei la rivorrebbe, non la vedrebbe come uno scandalo, ma una tutela dell'esercizio delle funzioni del parlamentare. Anche mi interessa, anche nel voler salutare un altro ospite, quello che le ha detto, insomma, perché si è visto che è successo in questi 15 anni un strapotere dei magistrati. Oggi il giornale titola così: l'abolizione dell'immunità ha consegnato l'Italia alle toghe, niente meno. Io voglio salutare il senatore Gianrico Carofiglio, buongiorno, del Partito Democratico. Senatore, buongiorno. Voglio fare sentire a lei, senatore, come a tutti gli ascoltatori, a Malan, cosa ha detto per esempio il ministro Brunetta domenica, era da Lucia Annunziata, cioè, per dire che, insomma, comincia a riaffacciarsi, magari a titolo personale, le idee di alcune persone, di politici, che dicono: ma sì, non è uno scandalo l'immunità parlamentare. Sentiamo Brunetta. Vogliamo parlare senza ipocrisia? Io sono stato 9 anni al Parlamento europeo e in 9 anni al Parlamento europeo io ho avuto l'immunità, perché il Parlamento europeo dà l'immunità, e assieme a me hanno avuto l'immunità anche altri, anche altri, e nessuno si è addontato, anzi l'ho utilizzata anch'io 3 volte. Perché sono stato più libero di dire il mio pensiero. Allora, e io questo lo considero lei a favore. Lei è a favore del ritorno dell'immunità. Certo, per rendere più liberi, non più impuniti. È sicuro che questo è popolare come obiettivo? Non sempre è quello che è giusto è popolare. Su questo lei pensa che non è basta favorito. Spiegare alla gente e la gente capisce. Dice, e gli italiani pensano che vogliono i loro parlamentari liberi di dire le loro opinioni, non impuniti. L'immunità parlamentare, sì, se limitata a questo, è un bene pubblico. È un bene pubblico se serve a garantire libertà ma non impunità. Allora votarono contro DC, PSI, PSD, PDS, MSI, Lega Nord, Verdi, PRI, Rifondazione Comunista nel 93. Solo il PLI, liberali, si astennero. Senatore Carofiglio, che ne pensa di quello che si adombra, insomma, come possibile ritorno dell'immunità parlamentare? Ma io penso innanzitutto che non mi scandalizzo affatto che se ne parli, sono del parere che ci sono questioni, come ha detto bene il senatore Malan, che vanno affrontate. Il tema della separazione degli ambiti fra politica e giustizia è un tema importante di cui, ripeto, è bene che si discuta. Poi naturalmente ci dividiamo sulle soluzioni rispetto a questi temi, a questi problemi. Il ministro Brunetta dice che l'immunità parlamentare serve a garantire la libertà del parlamentare di dire la sua opinione, e siamo perfettamente d'accordo. Il piccolo problema è che questa libertà è già garantita adesso, perché residua nel nostro sistema una norma che prevede una immunità parlamentare proprio per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, cioè il motivo per cui il ministro Brunetta, immagino anche il senatore Galan, vorrebbero invece reintrodurre un'immunità parlamentare generale che riguarderebbe reati come la truffa, come l'usura, come la corruzione, come la violenza privata, come ogni tipo di reato che nulla avrebbe e nulla ha a che fare con le prerogative parlamentari e con la necessità di garantire la libertà del parlamentare. Rilevo un'altra cosa rispetto al senatore Malan, che persona civile rispetto alla quale io rendo il massimo rispetto, lui ha un anno fa presentato un ampio progetto di riforma costituzionale di ben 36 articoli. Tra questi 36 articoli non c'è nessuna norma che riguardi la reintroduzione dell'immunità parlamentare. La mia domanda naturalmente è questa, perché adesso... In tempi sospetti, lei dice, il tempo è... Io insomma, chiedo perché il adesso, momento è un po' sospetto. Peraltro, se mi consente di aggiungere ancora una cosa, sì. Dice il senatore Malan e dicono altri come il ministro Brunetta, che la reintroduzione dell'immunità parlamentare è una sorta di tributo ai padri costituenti che la inserirono nella Costituzione nel 1947 in un clima di serenità e di, secondo loro, miglior comprensione di determinate esigenze di separazione fra politica e giustizia. È un discorso che ha un senso, che è anche in parte condivisibile. Dico però che l'appello ai padri costituenti da parte degli appartenenti alla destra italiana oggi è soltanto per l'immunità parlamentare, perché per tutto il resto l'idea invece è quella di modificare radicalmente, qualcuno dice stravolgere, la Costituzione vigente. C'è da dire che io poi tra l'altro non ho ricordato, senatore Carofiglia, anche un magistrato, ma tra l'altro su Radio24.it devo dire che per ora l'80% dice no, non la reintrodurremo. Effettivamente così suona molto poco popolare, però detto il ministro Brunetta, non sempre ciò che è giusto è anche popolare. Senatore Malan, però la domanda è questa, insomma, i tempi sono un pochino qua sospetti, qualcuno dice, ho sentito la Finocchiaro qualche giorno fa dire sì, spiegassero agli italiani perché in questo momento, dopo il lodo Alfano, si vuole reintrodurre l'immunità parlamentare. Malan. Guardi, io credo che avremmo dovuto reintrodurla molto tempo fa. È chiaro che fin tanto che è stato vigente il lodo però Alfano... compare adesso, insomma, ecco, questo è il tema, che ricompare adesso. Stavo spiegando, il lodo Alfano era sostanzialmente incompatibile con questa norma, perché sarebbe assurdo avere una legge che dà una ritardo nei procedimenti penali quando c'è un'altra norma, quando ci fosse un'altra norma come l'immunità parlamentare, che consente con il voto a maggioranza della Camera di appartenenza di non autorizzarli, per cui sarebbero due cose in parziale contraddizione. Fin tanto che era vigente lodo Alfano sarebbe stato incongruo, a mio parere, presentare un progetto di questo genere. Quindi insomma, in questo lei dice c'è una conseguenzialità, insomma, se c'era lodo Alfano era inutile avere questo tipo di scudo, ecco, possiamo dire così. Voglio salutare, poi vado da lui tra un attimo, devo dare il traffico, ma intanto è con noi, lo saluto, Gianni De Michelis, buongiorno, ci sente? Buongiorno. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, reintrodurreste l'immunità parlamentare? Dovete votare sul sito radio24.it. Molti ci scrivono, no? Ma reintrodurla solo per esempio, la possibilità, insomma, di non perseguire per i reati di opinione o per i pareri parlamentari. Ma quello c'è già, come ci ha spiegato anche il senatore Carofiglio, l'insindacabilità, sostanzialmente, la tutela per le opinioni espresse, per i voti dati dei parlamentari, questa c'è, perché altrimenti se no cadremmo nella barbarie. Gianni De Michelis, eccoci qua, buongiorno, esponente buongiorno. Tra l'altro di un partito, insomma, lei se lo ricorda quel momento in cui furono cancellati alcuni partiti, una storia, insomma, della Prima Repubblica, anche del Partito certo, Socialista. Certo, se la ricorda bene, certo. Senta, che ne pensa? Lei la reintrodurrebbe oppure appare come un qualcosa che la gente non capirebbe veramente più, insomma, questo momento storico? Non so se lo capirebbe o non lo capirebbe, secondo me lo capirebbe, ma il punto non è quello. Il punto è che la Costituzione del 47, e tra l'altro il cosiddetto centro-sinistra si è erto nel corso di tutti questi anni come un difensore della Costituzione un po' come un totem, ma in realtà chi ha, come si può dire, snaturato la Costituzione e ha creato una serie di vulnus per ragioni, chiamiamoli così, di lotta politica e non secondo un disegno razionale di riforma della nostra architettura costituzionale, è stato proprio il cosiddetto centrosinistra, a partire proprio da quella decisione, come dire, forzata di togliere l'immunità parlamentare, cioè una cosa che era stata messa secondo una logica ben precisa dal Costituente nel 1947 e che faceva parte appunto di quella che si chiamava una ordinata ed equilibrata architettura istituzionale e costituzionale, così come naturalmente quella Costituzione era poggiata sulla base della una legge elettorale proporzionale, e invece si volle modificare la legge elettorale introducendo il maggioritario, di nuovo non con riforma costituzionale, ma con un'operazione fatta in sé, non sulla base di una riforma dell'architettura costituzionale, ma semplicemente al fine di seguire una strada che ritenevano allora, ritenevano i post-comunisti, che gli avrebbe permesso più facilmente di conquistare il potere, cosa che poi non è, tra l'altro non avvenne, sì. E così è via, è avvenuto nel corso degli anni successivi. Però De Michelis non crede che insomma si sia, forse è stata tolta, certo, sull'onda di Tangentopoli, ma perché cambiare tutta la Costituzione, ovviamente tenendo quegli elementi di equilibrio nella nuova eventuale architettura costituzionale. In realtà l'unico che ha tentato di fare una cosa del genere è stato Berlusconi nel 2005-2006, che è stata approvata una riforma discutibile nel merito, ma comunque in qualche modo organica, e naturalmente poi il risultato finale è stato che il combinato disposto delle elezioni del 2006 e il successivo referendum hanno fatto saltare anche quello. Sì, ma è stata tolta anche perché, mi scusi De Michelis, allora l'immunità è stata... Ho capito, ma fu... l'intero assetto, compresa la... Vabbè, ma questo non è stato fatto, fu cambiato l'articolo 68, una parte della Costituzione. È stato. Allora, visto che oggi parliamo... Sì. E ne parla il Corriere, ne parla il Presidente della Repubblica, giustamente, viene chiesta la tregua, eccetera. Tutto questo è una delle cause di questa, diciamo, sciagurata. Lotta, come si può dire, senza quartiere, questa logica da curva nord e curva sud che ha ridotto il paese nelle condizioni in cui... Allora, vorrei tornare dal senatore Carofiglio. Ha sentito insomma Gianni De Micheli sulla lotta alla curva sud? Faccia un po' il magistrato, Carofiglio, perché qua dicono... Essendo del parere che ognuno deve fare quello che sta facendo in quel momento, io faccio il parlamentare. Era chiaramente un'affermazione provocatoria che io facevo, perché in realtà dissento, e dissento in modo radicale, da questa impostazione della questione, quella per cui vi sarebbe una guerra fra bande e vi sarebbe un combattimento continuo e quindi sarebbe necessario pacificare qualcosa. Il problema, a mio modo di vedere, è più semplice e più complesso al tempo stesso e può essere sintetizzato con dei numeri che meno si prestano, come dire, agli artifici argomentativi. Sa dal 1983 al 93 quante volte fu negata l'autorizzazione a procedere per reati, intendiamoci, non di opinione, sì, non connessi alla funzione politica, ma come truffa, segna vuoto, peculato, dica, corruzione, furto, ricettazione, sa quante volte? Dica. 950 volte. Io so che c'era Pier Camillo Davigo, siamo andati a spulciare negli archivi, che faceva quello di mestiero, faceva le richieste di autorizzazione a procedere, compilava fogli, faldoni, inutilmente, prima ovviamente perché venivano respinte, senatore. Quasi sempre, salvo che in casi come per esempio quello del Missino Saccucci, che commise un omicidio a mano armata dopo un comizio, e pochi altri, l'autorizzazione a procedere non veniva concessa. Ripeto, non già per reati connessi con l'esercizio della funzione parlamentare, in cui anche in maniera indiretta si poteva porre un problema di tutela della prerogativa parlamentare. Parliamo di ladri, di soggetti che emettevano assegni a vuoto, ricettatori, truffatori, peculatori, corrotti o corruttori e via discorrendo. Io credo che non si senta veramente la mancanza di uno strumento che serve a tutelare soggetti che commettono questi reati. Allora, vediamo 800 24 00 24, invece se dovete e volete votare radio24.it o il sole24.com. La domanda è: reintroduceste l'immunità parlamentare? Voglio andare velocemente, se ce la facciamo, a Treviso da Maurizio. Buongiorno, che ne pensa lei? No. È favorevole o contrario? Io sono letteralmente contrario e spiego pure la motivazione, se possibile. Certo, dica. Sì, praticamente in Italia cioè, non è che viviamo in un paese, io posso capire un paese del nord Europa, dove c'è una cultura della legalità già acquisita sia a livello politico, sia a livello logicamente sì, del cittadino. Cioè, no? Noi siamo dei disgraziati, quindi insomma... No, in che senso? Lì purtroppo la realtà dei fatti è questo, e lì funziona in questa maniera. Allora io posso capire l'immunità parlamentare in quei paesi che già hanno questo tipo di cultura, ma in Italia comunque questo tipo di cultura della legalità, in linea di massima, non dico tutti, intendiamoci, non esiste completamente. E quindi tanto vale non mettere scudi, insomma, lei dice, per nessuno, neanche per i parlamentari. Ma oltre, oltre questo, sì. Anche se mettono l'immunità parlamentare con la giustizia come funziona in Italia, non cambia niente. Va bene, grazie Maurizio. Devo andare veloce a Torino, in provincia, da Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Che dice lei? Ma io volevo solo dissentire sul fatto che chi ha fatto la Costituzione erano persone totalmente diverse da quelle che oggi vengono inquisite o giudicate. Mm. Quindi, cioè, quindi per arrivare a dire che cosa? Certo, questo sì, per arrivare a dire che lei l'immunità parlamentare come la vede? Assolutamente no, perché se poi uno si comporta bene non vedo perché debba avere questi favori. Beh, insomma, De Michelis, ha sentito le obiezioni sia degli ascoltatori sia del senatore Carofiglio a dire ci fu un abuso esatto, dell'immunità. Solo un esempio. Lei sa che diciamo prima del 1991 c'era la guerra fredda e lei sa meglio di me che per esempio nel corso di tutti quegli anni, di quei decenni, il Partito Comunista era finanziato dall'Unione Sovietica e naturalmente questo non avveniva all'insaputa di chi governava, ma veniva nell'ambito, come si può dire, di un equilibrio, ovviamente che non c'entrava niente con la cosiddetta legalità, che diciamo così derivava da Yalta e da dopo Yalta e così via. E in quel contesto, come si può dire, la immunità parlamentare e quella maggior parte di quelle autorizzazioni negate citate dal senatore Carofiglio sì. Derivavano da questa situazione. E derivavano dalla situazione in cui la lotta politica in Italia avveniva in parte sopra il tavolo, in parte sotto il tavolo. Mm. Tutto qui. E naturalmente l'immunità parlamentare ha consentito il mantenersi di questo equilibrio nel corso di 45 anni, con una serie di risultati molto positivi. Appunto, adesso non c'è più bisogno di quell'equilibrio, forse, quindi forse non c'è più bisogno. No, ma io non sto dicendo. No. Non sto dicendo che ce ne sia bisogno o non ce ne sia bisogno. Bisognava probabilmente affrontare il problema della riforma costituzionale certo. complessiva. Questo non lo si è voluto fare, ripeto, si è partiti dal tetto invece che dalle fondamenta. E lei dice questi sono i risultati. La legge elettorale, capo si vede. Va bene, io mi devo fermare, devo ringraziare sia il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà che insomma ha avuto, io posso dire almeno anche il coraggio di portare avanti una cosa impopolare, questo impopolare bisogna dirlo, almeno vedo anche il nostro sondaggio, per ora l'82% dice di no, rintrodurreste l'immunità parlamentare? No, in questo momento assolutamente. Ringrazio il senatore Gianrico Carofiglio del Partito Democratico e Gianni De Michelis per essere stati con noi, potete continuare a votare, poi alle 13 vi daremo i risultati, oppure domani mattina i risultati del nostro sondaggio di oggi. Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, e questi sono i saluti doverosi e noi ci ritroviamo domattina alle 7:30.